egoísta lo soy. Matrimonio, d'amianto, succella, poesie. E poi favole nere di noia e caffè. Ma il fegato grida bicchieri d'amor. Ho bevuto sin troppe volte. La palese stupidità. Nel mio passato in coppia ero gentile, impegnato, elegante, caro. Molto adesso e nel vino il mio sangue vibrò. Niente di